Dai, facciamo, non facciamo tardi. Per non fare tardi dovete fare meno domande, perché siamo stati almeno un'ora a rispondere alle domande. E io volevo dividerla in due, ma in realtà siamo a meno della metà. Quindi, via pedalare. Quindi fai tre no. Allora, prima avevamo parlato di tutta una serie di questioni, avevamo fatto una lunga premessa, avevamo parlato di password, di cifratura dei dischi, quindi protezione dei dati fisici, ma tutto il discorso e in generale i discorsi che abbiamo affrontato, a parte le domande, erano relativi a scenari senza internet, no? Non abbiamo mai considerato i rischi derivanti dall'internet, a parte le domande, tutta la storia sul malware. Quindi parliamo un po' di questa storia. Io adesso sono un po' in difficoltà perché in questo frattempo, non so come mai, ma un tasto della mia tastiera ha smesso di funzionare, quindi probabilmente non mi prende la password. Devo parlare più forte? Ah, ok. E quindi guarderò le slide dal telefono, tanto giusto per avere una linea guida. Quindi vi parlerò, come vi dicevo, vi parleremo anzi, di un po' la navigazione in generale, quindi le accortezze da prendere, poi un po' sui metadati, poi ho un argomento specifico sull'uso di questi dispositivi qua, in particolare sulla geolocalizzazione, comunicazione, anonimato e server radicali. Quindi partiamo e appunto, come dicevi, pedalare e andiamo avanti. Facciamola molto veloce questa. Allora, rischi relativi all'uso di internet, sempre per quanto riguarda appunto la possibilità di essere infettati, di essere presi di mira, eccetera, eccetera. Innanzitutto, strato base. In informatica di solito funziona tutto a strati. I ragionamenti si fanno a layer. Il primo layer relativo a questo argomento è come accedo alla rete, quindi quale strumento fisico io utilizzo, se uso un cavo di rete, se uso il GSM, il 3G, il 4G, il wireless, eccetera. Ognuno di questi protocolli subisce dei potenziali attacchi. In particolare il wireless, soprattutto quando parliamo di reti pubbliche aperte, addirittura senza password, è un utilizzo peculiare per accedere appunto a internet. Questo perché quando ognuno di noi si collega a una rete pubblica o anche insomma collettiva, non privata, tutte le altre persone che si collegano a quella rete hanno come dire, la possibilità di accedere al nostro traffico, al traffico che noi facciamo. E anche fare un attacco che si chiama Man in the Middle, fondamentalmente di mettersi in mezzo nella comunicazione tra noi e chi crediamo che l'entità con cui crediamo di star parlando, quindi il servizio a cui ci interfacciamo. Quindi, in base al tipo di strumento fisico che noi utilizziamo per accedere a internet, ci sono dei livelli di rischio. In particolare, quello che io vi consiglio è nel caso in cui voi dobbiate installare una rete a casa vostra, mettetevi un piccolo cavetto Ethernet vicino alla vostra scrivania perché come dire, alza l'asticella degli attacchi. Okay? Questo ve lo dico perché uno, ad esempio, degli attacchi, dei sistemi utilizzati per inoculare il malware, ad esempio di RCS, era proprio attraverso il bucare la rete wireless della vittima, quindi l'attaccante si mette anche fuori casa vostra, volendo ipoteticamente, e può in qualche modo con degli stratagemmi entrare nei vostri dispositivi. Analizzando il traffico via radio, quindi passivamente, quindi con un'antenna esterna un po' potenziata fuori da casa vostra, al vostro appartamento, possono registrare anche se avete la password sulla rete wifi, l'handshake, quindi la negoziazione della crittografia che fa il vostro PC col vostro access point e portare un attacco a quella password lì. e su un PC di media potenza si fanno 2-3 mila chiavi al secondo, su un sistema in cloud eccetera se ne possono arrivare a fare 200 mila al secondo, quindi la password della rete wifi, se è paperino, non va tanto bene, ok? Non deve essere addizionario, deve essere 20 caratteri totalmente casuali, tanto la mettete lì una volta e la cambiate una volta l'anno, una volta ogni 2 anni. Però se mettete una password a dizionario e non è sufficientemente lunga, in quel caso lì, se siete un target dove fisicamente qualcuno viene vicino a voi per attaccarvi, ok, è ovviamente possibile rompere, senza che voi possiate accorgervi di niente, nel senso che è totalmente via radio l'intercettazione delle credenziali, e il protocollo funziona così, a meno che non usate altra roba, ma protocollo wireless funziona così, cioè la vostra password viene esciata e viene mandata via radio all'access point che vi identifica e vi autorizza a entrare in rete. Wireshark, sì. No, allora normalmente si usano programmi tipo Aircrack oppure Kismet, ma ce ne sono anche per Android e così via. Kismet c'è anche per macOS, sì. Puoi farlo anche con Wireshark, nel senso tu registri il traffico, diciamo, dal ricevitore radio, tu metti allora è tutta roba che si fa con apparati consumer, cioè non serve avere un apparato speciale che costa X, no, con una normalissima scheda wifi da 50 euro con un'antenna esterna io posso registrare il traffico wireless dicendo semplicemente alla mia scheda di rete di farmi vedere tutto il traffico wireless che passa nell'etere, e dei particolari frame che sono quelli dell'unshake posso identificarli e brute forceli con questi programmi qua, Jonte Ripper, Aircrack eccetera, Hashcat. Posso anche registrarli con Wireshark, cioè registro con Wireshark, poi salvo l'unshake e lo passo a Jonte Ripper. Il discorso invece delle wifi pubbliche è completamente diverso, perché dove è più facile che un rompicoglioni o un qualcos'altro possa analizzare il traffico che voi state facendo? Su un hotspot pubblico, quindi se siete in albergo o al centro sociale o all'ospedale e usate la wifi pubblica, evitate di fare su quella wifi pubblica, se non sapete cosa state facendo, delle operazioni particolarmente sensibili. Chiudo solo dicendo, poi ti ripasso la palla, chiudo solo dicendo che questi rischi qua tecnologici legati alla man in the middle, al poisoning eccetera, non è che non ci siano nelle reti cablate, ci sono esattamente anche nelle reti cablate, però l'attaccante deve essere connesso a una delle porte di rete del vostro switch, o fisicamente, nel senso che è venuto lì e non ci vuole molto, basta far finta di entrare per fare qualcosa, portarsi un Raspberry o un altro oggetto alimentato a batteria grande così, attaccarlo dietro la prima stampante che trova con un passante, non è difficile fare neanche questo. Oppure logicamente il famoso malware di cui abbiamo parlato che è entrato nel tuo PC, probabilmente se l'attaccante vuole può essere usato dal tuo PC per analizzare il traffico di rete di tutte le macchine su quella rete locale. Noi informatici abbiamo fatto un casino con sta cosa del traffico di rete che metà basta. Giusto, non ci sono domande stupide, ci sono solo risposte stupide. Allora, la domanda è, a proposito di Wi-Fi, perché devo cambiare la password di default che è stata preimpostata dal produttore dell'apparato o da quello che mi vende la DSL? La risposta è implicita. Perché uno, ce l'hanno loro. Due, spesso queste sono fatte con degli algoritmi predicibili. È già capitato da un bel po' di tempo che adesso le ultime non ci sono pubblicamente gli attacchi, poi non è detto che qualcuno non li abbia già scoperti, però è già capitato che con le vecchie versioni di Alice, di tutte queste cose qua, semplicemente guardando il SID, cioè il nome della rete che viene pubblicato nell'etere continuamente dall'access point, tu potevi rompere con un programmino del cazzo per Android la chiave di crittografia, perché era stato reversato l'algoritmo, quindi avevano scoperto come avevano fatto per fare in modo che la venisse scelta, diciamo, la chiave wifi della rete. Di base però la domanda è ottima, anzi, cambiate le password di default degli apparati, non usate quelle di default, perché comunque è un'idea poco intelligente tenerla, insomma, ecco. Poi vabbè, qui mi ero scritto tutta una serie di punti, di suggerimenti, prendeteli un po' così alla buona. Uno era appunto cambiate le password di default dei router, proprio specifico. Poi negli apparati wireless di solito c'è una modalità di autenticazione che si chiama VPS, c'è un tastino che vi permette di autenticarvi all'apparato senza conoscere una password, solamente avendo accesso fisico allo stesso. Ecco, c'è la possibilità di disabilitare questa funzionalità, disabilitatela. E poi per quanto riguarda l'utilizzo delle wifi pubbliche, il consiglio di utilizzare una VPN, che è un sistema di cui vi andrò a parlare dopo, per evitare che qualcuno riesca a intromettersi nel traffico che esce dal vostro dispositivo, sia attivamente, quindi sia inoculando del traffico altro, sia in entrata che in uscita, e sia anche semplicemente leggerlo. Una cosa importante anche lì, dipende poi sempre dal livello di rischio e tutto, però una cosa che si può fare, soprattutto su una wifi pubblica, cioè non è semplicemente che ti intercettano il traffico, è che si può anche modificare. Quindi io posso iniettare un malware, se tu scarichi un eseguibile, un documento, un qualche cazzo di cosa da una rete wireless guest senza utilizzare la crittografia, chiunque sia su quel segmento di rete sta facendo quel tipo di attacco può modificare il traffico, e tu non hai nessuno strumento tecnologico, tu nel tuo computer avete nessuno strumento tecnologico per capire se è stato modificato o no. Poi nel caso di lawful interception eccetera, Hacking Team per esempio l'hanno fatto fare anche ai provider, quindi è un rischio che c'hai anche se usi la DSL, se sei soggetto a un certo tipo di indagine, nel senso che qualcuno può andare con un mandato, si spera, spesso no, dal tuo provider e dirgli: quel particolare utente quando si collega dirottami tutto il traffico alla mia postazione di ascolto, e lì eventualmente possono provare a iniettarti un malware in qualcosa che tu scarichi o cose di questo genere. Poi immagino parleremo di... Poi buone pratiche in generale quando noi ci approcciamo al web, quindi utilizzando Firefox, Chrome, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto controllare la barra di navigazione, un consiglio basilare. Il dominio che è scritto sopra quella barra deve essere veramente il dominio che voi volete visitare, quindi non, come dire, dovete scriverlo veramente voi, oppure averlo nei bookmark o nella history, deve essere un dominio vostro. Quindi se qualcuno vi manda ad esempio una mail con un link a qualcosa che sembra google.com, magari non è Google veramente, ma è un sito che duplica e clona fondamentalmente un altro servizio che sembra il vostro, quello a cui volete accedere, magari vi chiede delle credenziali, e quindi voi state dando semplicemente i vostri account, user e password a un'entità che non è quella che voi state, cioè che credete che sia. Per esempio, chi di voi sa quali sono i domini registrati da autistici? Autistici.it? No, parla solo di autistici. Tu quando vai su autistici cosa metti? Autistici.inventati.org. Okay. Se fosse net, it, info, sto cazzo, eccetera, ovviamente potrebbe essere qualcuno che ci sta a provare, ok? Quindi basta, in un sacco di truffe, quelle fatte all'azienda, molto spesso registrano nome azienda.eu o nome meno azienda, invece nome azienda, e gli utenti ci cascano come dei polli, quindi... Sì, poi tra l'altro, sempre sul tema, ultimamente c'è la possibilità di registrare dei domini in caratteri che non sono il latino, quindi il cirillico, il cinese, eccetera, quindi con gli ideogrammi, eccetera. In molti alfabeti esistono dei caratteri che sono identici a quelli latini, quindi esistono, va bene, i casi più diciamo banali, si sostituisce ad esempio la 0 con un O, e in alcuni font... Quindi in alcuni tipi di caratteri sembra veramente uguale, tipo l'uno con la L. Però esistono veramente degli alfabeti dove una ipotetica O, che non è la O, ma è magari un'altra lettera in cirillico, è visualizzata esattamente come la O. Quindi il dominio, se voi non lo scrivete premendo veramente la O, ma è un link appunto che vi arriva, oppure copia incollata da qualche altra parte, non è detto che sia veramente quello che credete essere. Quindi sui link sospetti, magari invece di fare copia e incolla, scriveteli voi a mano. Un'altra pratica buona potrebbe essere quella di settare il vostro client di posta in modo che visualizzi le mail Un'altra pratica buona potrebbe essere quella di settare il vostro client di posta in modo che visualizzi le mail in formato testo e non in formato HTML, perché nel formato HTML potreste vedere semplicemente la visualizzazione del come il link è stato chiamato, perciò cliccare su un link senza sapere esattamente qual è l'indirizzo dove vi state recando. Mentre se invece lo vedrete per iscritto avrete la possibilità di vedere che non è PayPal ma è PayPallo e dunque potrebbe essere un phishing. Mentre utilizzate i vostri programmi per accedere al web, esiste la possibilità di corredarli a delle estensioni. Ci sono alcune estensioni che sono utili, che io vi consiglio. Alcune sono proprio relative alla questione della sicurezza e che attuano quello che prima chiamavo il tema dei container, cioè avere dei blocchi che si occupano di cose differenti del mio agire. Ad esempio esiste Facebook Container che si preoccupa proprio di questo, cioè di non rendere la tab, cioè la scheda dove io accedo a Facebook, comunicante con eventuali altri siti che comunque comunicano con Facebook, perché funziona così la profilazione commerciale, cioè quando io visito un sito, se quel sito mi presenta dei piccoli script di terze parti, si chiamano, cioè che vanno a comunicare con i servizi di profilazione, si riescono a collegare a quelle attività che voi fate anche sulle altre tab. Esistono appunto delle estensioni che evitano questa questione qua. Devi cercare container. In realtà questa cosa dei container dentro il Firefox nuovo è di default, nel senso che c'è la possibilità di creare dei profili proprio per tipologia, quindi voi ad esempio potete avere il profilo lavoro, il profilo che ne so dove fate solo operazioni di pagamenti, e il profilo di che ne so dove fate solo le vostre robe politiche separati. Questo vuol dire che voi avete proprio quando aprite una tab con un profilo, il sito che voi visualizzate non è automaticamente loggato, che è quello che succede, cioè quando voi accedete a Facebook, a Gmail, se non uscite anche chiudendo Firefox, riaprendolo, siete automaticamente loggati. Usando profili diversi questa cosa non è sempre vera, nel senso che io non sono loggato in tutti i profili ma solamente in quelli che decido essere atti all'uso di quel particolare servizio. Poi sicuramente questo un po' si discosta dall'ambito sicurezza, però visto che parliamo di questo argomento mi preme anche consigliarvelo. Sicuramente cambiare motore di ricerca è uno dei suggerimenti che mi sento di dare, quindi evitate magari di usare Google per altri motivi, ma non solo in realtà, perché sempre per le questioni relative all'ambito intercettazioni esistono dei canali preferenziali con cui le forze dell'ordine parlano direttamente con le società che si occupano di gestire i nostri dati, e quindi succede che le polizie vadano da Google, da Facebook a chiedere i dati relativi alle vostre ricerche, ai vostri spostamenti. Una cosa un po' più complicata di così, però visto che dobbiamo un po' però non so se mi avete capito. Quindi ad esempio per quanto riguarda i motori di ricerca io vi consiglio DuckDuckGo con CK tipo paperella, Go, che è un ottimo motore di ricerca e diciamo è improntato proprio sulla questione privacy. Un altro, ve ne dico altre due che sono quelle che io utilizzo, con cui mi trovo molto bene. Un'estensione sicuramente fondamentale nel contesto in cui ci troviamo è una adblocker, che sono quei sistemi che permettono di bloccare i widget pubblicitari. Ad esempio c'è uBlock Plus, c'è adblock Plus o uBlock Origin, che sono quelle due che mi sento di consigliare. E poi c'è un'altra estensione che io in realtà uso quest'ultima, che ha anche un altro scopo, si chiama Ad Nauseam, che oltre a fare questa cosa di non mostrare i contenuti pubblicitari, fa una cosa secondo me molto bella, che è cliccare a caso automaticamente su tutte le pubblicità. Questo per due ragioni: una per falsare la profilazione e l'altra perché questo sarebbe un altro talk, però nell'ambito della profilazione pubblicitaria quello che succede è che ci sono fondamentalmente tre entità: l'inserzionista, chi mostra e gestisce tutta la faccenda della pubblicità, quindi che ne so, Google Ad, e chi invece si suca la pubblicità. Ecco, se io, cioè l'inserzionista paga in due occasioni, per view, cioè quindi per quanti utenti viene visualizzato quel box, e per click, cioè quanti utenti ci cliccano, ed ha un costo per l'inserzionista. In questo, facendo dei click che però non sono spontanei ma sono automatizzati in tante persone, e ad nauseam è veramente abbastanza utilizzato, quello che succede è che l'inserzionista si incazza perché sono click finti, però deve pagarli perché non sono veramente degli utenti che lo fanno, e Google si incazza perché sono click finti e, come dire, è in mezzo in questo merdaio. Quindi io ve lo consiglio. Più caos. L'altra questione relativa alla navigazione su internet è la famosa navigazione in incognito, che secondo me è la parola più sbagliata dell'universo per indicare quello che effettivamente fa. La navigazione in incognito, che è quella funzionalità che voi potete attivare premendo sul menu a destra e schiacciando apri nuova finestra anonima o nuova finestra in incognito, in realtà non protegge assolutamente la vostra identità. Quello che fa è semplicemente attivare una modalità in cui tutto quello che voi visitate non viene salvato nella cronologia, primo. In secondo, non fa caching delle immagini che, insomma, che visitate, e i documenti che voi salvate in quella sessione di lavoro lì non vengono salvati sul disco in maniera permanente, ma solo temporanea, in una partizione temp, in Linux, insomma. Questo è quello che fa, cioè vi protegge da un attacco di vostra madre fondamentalmente. Però appunto navigando in questa modalità su internet non è che voi siete anonimi per niente, ok? Inoltre non salva neanche i cookie, quindi se io accedo a un servizio in modalità anonima, in modalità in incognito, scusate, quando chiudo poi Firefox e lo riapro sempre in quella modalità non sono loggato. Allora, buone pratiche di igiene è svuotare la cache, la cronologia nelle impostazioni avanzate, quindi compreso cookie, preferenze dei siti, una volta al giorno, una volta a settimana, una volta al mese. Io personalmente, che sono un po' paranoico, ho differenti utenti proprio a livello di sistema operativo, uno che è internet per il cazzeggio, uno che è internet per l'azienda, uno che è internet per l'home banking e altre due o tre cose, ok? Quindi proprio usare contesti utente diverso. Cosa succede? Che se ho una roba che mi traccia, o peggio un tentativo di malware o un malware riuscito in un contesto utente, se non riesce a diventare amministratore sul sistema operativo rimane in quel contesto utente lì. Quindi se io ho il mio profilo utente dove leggo la posta e il mio profilo utente dove vado su internet, in caso di compromissione del profilo internet non vanno comunque a leggere la posta o cose di questo del sistema operativo. Però un trucco, cioè quello che diceva lui dei profili del browser, comunque già un minimo fa. Poi duole dirlo, però purtroppo, adesso qui smentiscimi se sbaglio, però ad oggi secondo me il browser più sicuro dal punto di vista della sicurezza informatica purtroppo è quello meno sicuro dal punto della profilazione dei cazzi vostri, che è Google Chrome. Okay. Nel senso che Google Chrome rispetto a Firefox, io consiglio e uso Firefox per essere chiari, però Google Chrome ha dei meccanismi tecnologici, in particolar modo la sandboxing, per cui se c'è un attacco mirato a far malfunzionare il vostro computer per installare un malware eccetera, è un po' più robusto. È comunque una questione di soldi, basta tirar fuori i soldi e gli zero day vengono fuori. Fanno una gara, un challenge ogni anno a una conferenza, si chiama Pwn to Own, ok? La gara è iniziata nel 2006 dicendo: prendo l'ultimo Mac OS X, l'ultimo Linux, l'ultimo Windows, li metto là, chi vuole si iscrive, viene lì, mi dà l'organizzatore dice mi dà un bigliettino con un indirizzo, vado lì, digito l'indirizzo e faccio invio. Se il sito remoto riesce a prendere il controllo della macchina, si porti via la macchina. Sono andati via tutti e tre i portatili. Il montepremi di quest'anno erano 6 milioni di dollari. Ok? Allora, gli zero day esistono e c'è tutto un mercato fiorente dietro di cui non ho neanche voglia di parlare, mi fa abbastanza schifo, però non è questo lo scenario di cui dobbiamo proteggerci. Lo scenario di cui dobbiamo proteggerci è: non siamo noi coglioni a cliccare su documento pdf.exe e prenderci un malware da un primo pirla che ce lo manda. DuckDuckGo è un motore di ricerca, è un servizio, quindi è... La domanda era: su DuckDuckGo è possibile fare più profili? Non è una cosa cui tu ti autentichi, non hai un utente. Sì, lei dice, su Firefox esiste un'estensione DuckDuckGo, esatto, perché il problema tra virgolette di Firefox è che il motore di ricerca di default è Google, questo proprio perché Mozilla si piglia i soldi da Google fondamentalmente, e quindi quando voi digitate sopra la barra di navigazione qualcosa che non è un indirizzo internet ma è una parola di ricerca a caso, viene automaticamente riindirizzato su Google. Sì, in realtà Google viene usato sempre, perché anche per la questione del phishing, quando ci sono dei domini che sono stati segnalati a Google che sono problematici, Google vi avvisa, e Firefox ha questa funzionalità, quindi chiede sempre a Google se il dominio che voi state visitando, capite che questa roba è anche molto assurda, e questo è un flag che voi potete disabilitare, tra l'altro, dalle impostazioni. Invece la cosa che diceva lei di DuckDuckGo, dell'estensione, è che installando l'estensione di DuckDuckGo viene modificata appunto questa funzionalità qui, quindi il motore di ricerca di default diventa DuckDuckGo. Questo è più o meno quanto. L'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire rispetto alla navigazione, vuoi fare una domanda? Posso finire? È la questione dell'HTTPS. Quindi nella barra di navigazione, voi sicuramente lo sapete già, ma a fianco sulla sinistra di solito c'è un lucchettino verde, sempre di più quando accedete ai servizi, sicuramente a quelli commerciali. Quel lucchettino verde indica fondamentalmente due cose. La prima è che il servizio con cui state parlando è effettivamente quel servizio. Poi anche lì ci sono, come fa lui, così, poi dipende anche sempre dal tipo di attaccante, perché appunto la gestione delle certification authority, bla bla bla, è un discorso lungo, però anche qua modello di rischio. Però fondamentalmente è un alzare l'asticella. Il fatto che ci sia appunto quel lucchettino verde identifica A, questa cosa qui, e B, che il traffico che passa tra il vostro computer e il servizio è cifrato, quindi in qualche maniera nessuno nel mezzo, quindi né il vostro capo ufficio, amministratore di rete, telecom o insomma i vari n nodi che sono tra voi e il servizio a cui state accedendo, può leggere quello che state facendo. No, solo prima di dimenticarmi, una cosa importante sul vostro capo ufficio. Questo discorso dell'HTTPS, quindi del lucchettino del traffico cifrato, vale sempre fino a quando avete voi il controllo della postazione di lavoro. Nel senso che c'è una funzione che è proprio normale nei firewall commerciali, che si chiamano di ultima generazione, che permette di spacchettare, quindi di rompere la crittografia per questioni di controllo di sicurezza e balle varie, anche delle comunicazioni che non dovrebbero essere intercettabili. Quindi cosa succede? Che tramite il dominio Microsoft in cui la vostra postazione di lavoro è collegata, il firewall della vostra azienda vi dà un finto certificato che dice sono io autistici.org, ok? Ma in realtà il certificato di sicurezza non è quello di autistici, è quello del firewall. Okay? Dopodiché il firewall fa a sua volta una connessione cifrata con autistici, quindi il traffico è cifrato, sì, ma tra voi e il firewall e tra il firewall e il server di là. Questo serve al firewall perché dovrebbe fare in automatico dei controlli. Nessuno vieta però a un amministratore di rete disonesto, un datore di lavoro disonesto, di andare a analizzare, e comunque quello che fate viene tracciato, quindi se andate su autistici, se andate su cazzi vostri, ok? Non ve ne accorgete, non vi viene fuori il messaggio d'errore del browser che dice la certification authority che ha rilasciato questo certificato non è attendibile, perché la certification authority che il firewall usa per firmare i certificati voi ce l'avete già installata nel vostro computer, Ok? Quindi questa è una cosa importante da sapere, che se volete fare traffico e volete essere certi che non venga intercettato da qualcun altro, o che chi lo intercetta è solo qualcuno che può andare da una certification authority e dirgli dammi un certificato per Gmail, ok? Non dovete farlo su un PC di cui non siete gli amministratori e non sapete come funziona la faccenda. Sì, facevo una precisazione rispetto al fatto che Chrome è molto più soggetto a attacchi di profilazione rispetto all'utilizzo di cookie e anche altri strumenti di cui non vi sto a parlare, non stiamo a parlare di appunto tracciamento. Velocizziamo un po' perché ci sono ancora tante robe di cui parlare. Un'altra domanda, l'ultima. Sì, in realtà ci sono mille opzioni. La domanda era, oltre DuckDuckGo, su Quant esistono tanti motori di ricerca. In realtà ne potremmo parlare anche nei dettagli di ognuno, però insomma sì, anche guardatevi Quant, è un'altra opzione. Io sponsorizzo, diciamo, consiglio DuckDuckGo perché è fondamentalmente basato proprio sul, come dire, innalzare l'asticella della privacy degli utenti che lo usano. Ok, capitolo nuovo, metadati. Sì. No, ti scuso. Vai. Ne parlo dopo. Allora, metadati. DNS, lo so, ce ne sarebbe veramente tanto. DNS, ne vogliamo parlare di DNS. Allora, DNS, allora uno degli un attacco, diciamo, possibile soprattutto nelle reti e nei computer di cui non avete voi il controllo è il DNS. Il DNS è quel servizio che permette di tradurre il dominio che voi state visitando in un numerino che è l'indirizzo IP. L'indirizzo IP è fondamentalmente un identificativo del server, del servizio a cui voi volete comunicare, un po' tipo il numero di telefono per i nostri telefoni quando io voglio chiamare, cioè è dove si trova e come faccio a comunicare con quel servizio lì. Il appunto DNS è solitamente quello che, diciamo, viene utilizzato, è quello del vostro provider, cioè se io ho un contratto DSL con Telecom, il DNS in automatico, di default, che mi dà il router è quello di Telecom. Ovviamente Telecom nella maggior parte dei casi solitamente mi dice la verità, cioè quando io gli chiedo google.com effettivamente mi restituisce il numerino che appartiene veramente a google.com. Non è sempre così. Ad esempio in Italia esistono delle liste di domini censurati, tra virgolette esistono due liste, una è del Monopoli di Stato, quindi per evitare che voi vediate i siti di scommesse, ok, perché che non pagano le tasse, che non sono appunto regolari, e questa è una lista, e l'altra è una lista di fondamentalmente pedopornografia, terrorismo. Entrambe queste due liste tra l'altro non sono pubbliche, sono leakate in qualche maniera negli anni, però insomma è un po' una zona d'ombra oscura. Quindi il DNS, per parlare di DNS, potete sulla vostra rete, sul vostro dispositivo, anche sul telefono, c'è un'opzione andando su rete, modifica, manuale, impostare un DNS di cui vi fidate di più. Però anche lì, però quale, è veramente un discorso un po' lungo. Parliamo di metadati. Allora, i metadati che cosa sono? Sono i dati che descrivono tutto quello che non è l'informazione in sé. Quindi, a parte il contenuto di un messaggio, tutto il contorno, le informazioni appunto corollarie, si chiamano metadati. Quindi, ad esempio, nel caso delle telefonate, o che ne so, dei messaggi, è chi ha mandato il messaggio, a che ora l'ha mandato il messaggio, a chi l'ha mandato, magari, che ne so, dove si trovava in quel momento quando mandava il messaggio, e magari anche altre cose tipo quanto era lungo, se conteneva magari dei messaggi multimediali, eccetera, eccetera. E considerate che ogni informazione digitalizzata si porta dietro dei metadati, questo anche proprio per ragioni tecniche di funzionamento dei protocolli stessi. E quindi parlo di SMS, telefonate, messaggi WhatsApp, email, qualsiasi cosa. E anche i file, cioè i file stessi hanno dei metadati, quindi all'interno di un'immagine, quello che è l'informazione salvata dentro un JPEG, un PNG, non è solamente quello che è visibile nei pixel e nei colori, ma ci sono anche altre informazioni. In particolare, ad esempio, se voi avete scattato una foto, quindi quella è un'immagine, all'interno è salvata anche, che ne so, il modello della macchina fotografica con cui avete scattato quella foto, quanto era l'esposizione di quella foto lì, e anche magari altre informazioni un pochino più sensibili, ad esempio la geolocalizzazione, cioè dove è stata scattata quella foto. In alcune, soprattutto nei telefoni, in alcune app questa cosa è una funzionalità abilitata di default. Capite bene che è un'informazione sensibile dove ho scattato quella foto, nel senso che persone sono state arrestate per questo motivo qui, in particolare quel pazzo di McAfee. E anche le email contengono al loro interno tutta una serie di metadati, quindi per farvi un esempio. Esatto, i documenti Office, insomma i file in generale, i PDF, contengono anche delle informazioni che potrebbero risultare sensibili. Quindi se io devo mandare un comunicato, che lo faccio in maniera ultra anonima, usando Tor, usando tutte le tecniche, e poi questo comunicato l'ho scritto col mio computer, dove il nome utente è il mio, e Office all'interno del PDF scrive che quel documento è stato scritto da me, sono nella merda. Quindi occhio. I file di testo infatti non contengono fondamentalmente dei metadati. In particolare, per me il problema dei metadati è una questione molto sottovalutata per n motivi che vi andrò un po' a elencare adesso. Il fulcro della questione è che fondamentalmente c'è una percezione rispetto all'importanza dei contenuti rispetto appunto a queste informazioni che sembrano di primo così avviso secondarie, no? Infatti in tantissime legislazioni i metadati sono trattati in una maniera molto diversa dai contenuti delle comunicazioni, molto più blanda. E io vi faccio un po' di esempi. Cosa mi servono i contenuti se so che hai chiamato, qua leggo perché me lo sono scritto, se so che hai chiamato una sex line alle 2:30 e hai parlato per 20 minuti, oppure che ne so che alle 4 del pomeriggio hai chiamato un numero verde per la prevenzione suicidi. No, io non sto sentendo quello che stai dicendo in questa telefonata, ma conosco il numero destinatario, so per quanto hai parlato, posso immaginare quello di cui hai parlato. O, che ne so, hai ricevuto una mail da un servizio di check dell'HIV e poi hai chiamato il tuo medico di base e hai visitato un forum di sieropositivi nella stessa ora. Ecco, tutte queste informazioni non sono i contenuti, cioè io non so cosa hai detto al tuo medico, non so cosa c'era nella mail che hai ricevuto del check dell'HIV e non so i commenti che hai letto, hai postato nel forum dei sieropositivi, ma un'idea me la posso fare rispetto a quello che sta succedendo. Qua c'ho altri due esempi, ma ve li salto. E quindi, appunto, una delle cose che mi premeva dire è che appunto i metadati legalmente sono considerati in secondo piano, cioè tutta la legislazione rispetto a questa tematica qui è più pressante sui contenuti, no? Quindi anche mediaticamente, politicamente, eticamente, l'intercettazione del contenuto della telefonata è molto più impattante, no? Se qualcuno mi ascolta mentre parlo rispetto a se sa a che ora ho chiamato e per quanto sono stato, come dire, mentalmente sembra un'invasione della privacy molto più grave. Ecco, in realtà secondo me non è così, per due motivi. Il primo, che è quello secondo me più importante, è il fatto che nel primo caso, cioè ascoltando i contenuti, non puoi fare intercettazioni di massa, cioè non è un attacco che tu puoi fare massivamente. Immaginate di dover decidere delle operazioni di polizia in base a ascoltare le telefonate di centinaia di persone per tanto tempo. Voi non potete sapere, cioè è una cosa che ti richiede tantissime risorse, denaro, persone, mezzi. Avendo invece solamente i metadati, che sono dati digitalizzabili, indicizzabili, categorizzabili e facilmente ricercabili, io posso rispondere a delle domande a cui non posso assolutamente rispondere avendo invece in mano tera di contenuti veri e propri. Non posso farmi la domanda tipo voglio sapere la rete sociale tua da questo numero di telefono. Invece avendo i metadati, ce l'ho già lì digitalizzati, faccio una query e magicamente posso sapere tutte le persone che tu hai chiamato in questo lasso di tempo. Ok, questa è una domanda che io posso pormi con i metadati in mano. Sempre su dati e metadati per capire meglio questa cosa. Se nell'esempio che ha appena fatto Legion il dato è la telefonata e invece il metadato è quando è stata fatta la telefonata, chi ha fatto la telefonata a chi, qual è il numero di telefono, quanto è durata, eccetera, eccetera, eccetera, tenere conto che mentre il dato, cioè la telefonata, deve essere sbrigata da un umano, il quale dovrà probabilmente ascoltare la telefonata, il che implica dei tempi e dei costi, invece i metadati possono essere sviluppati e elaborati da delle macchine. E dunque, per dirla in maniera più sintetica, così non saprei, il controllo scala molto più rapidamente. Per esempio, appunto, l'esempio che dicevo prima, cioè se devo sapere chi è venuto all'hack meeting o metto due sbirri qui fuori che guardano tutti, provano a riconoscerli, o semplicemente guardo tutti i cellulari agganciati alle celle che coprono l'hack meeting. Sempre sui metadati, per tornare al discorso DNS, se io voglio sapere che siti visiti o ti metto un malware, vedo che cosa fai, eccetera, oppure guardo le richieste DNS che fai, perché se vai su autistici ci sarà una richiesta per DNS, qual è l'indirizzo IP di autistici, eccetera, eccetera. Quindi anche questa cosa di DNS è un, per tornare, metà tra i metadati e la Ne parlo. Sì, infatti è una cosa di cui è in coda, ne parlo tra poco. Risponderò a tutte le domande così, poi non sarà vero, cioè qualsiasi domanda risponderò ne parlo dopo, ma poi non è vero. Esatto. L'altra questione importante dei metadati, appunto, che vi dicevo, è che sono considerati molto diversamente dai contenuti spesso nei vari sistemi legali. Ad esempio, in Italia, per essere intercettati, cioè per avere effettivamente i contenuti in mano, la procedura legale non è così semplice, ci deve essere in ballo un certo tipo di reato e tra l'altro è abbastanza stringente, tra virgolette, se vogliamo, nel senso che vanno a slot temporali di 15 giorni. Ok, quindi nel caso in cui ci sia un'indagine, bla bla bla, il magistrato sti cazzi ha 15 giorni di tempo e poi può prolungare questo tempo. Invece, per quanto riguarda i metadati, almeno per quanto riguarda quelli telefonici, i provider sono obbligati per legge a tenere i metadati delle comunicazioni per 24 mesi di tutti quanti. E quindi capite bene che invece è una roba molto problematica da questo punto di vista qua. Bla bla bla bla bla bla, salto robo. Quindi come mi proteggo per rispondere un po' alla domanda che facevi te? Vabbè, innanzitutto la consapevolezza del fatto che esista questa roba qui è un primo punto di partenza da cui comunque non ci dobbiamo mai dimenticare. Poi ci sono due branche, prima vi parlavo del fatto che ci sono appunto i metadati all'interno dei documenti ed è una cosa su cui noi possiamo e dobbiamo lavorare. Ad esempio esistono dei programmi e delle app che non solo ci fanno vedere i metadati contenuti all'interno dei file, ma ci danno anche la possibilità di eliminarli. Ad esempio per Linux c'è Mat, su Android, credo anche su iOS, non lo so, c'è un'app che si chiama Scrambled EXIF, che è molto semplice da utilizzare. Voi semplicemente quando dovete condividere un documento, un'immagine, vi vengono fuori le app con cui volete condividerla. Tra le app c'è anche Scrambled EXIF. Pigiando Scrambled EXIF, semplicemente quel documento viene ripulito dai metadati e poi vi dà subito dopo la possibilità di ricondividerlo nell'app che volevate ricondividere. MAT è quello per Linux e per Android si chiama Scrambled EXIF. MAT si scrive MAT, MAT è sia linea comando che grafico, e invece un altro è EXIF Tool, che è solamente linea comando, Obscura Cam. Beh, ma può farlo. Obscura Cam è un'app per telefonino che permetterà di eliminare qualche metadato da una foto nel caso vogliate utilizzare la foto da condividere in qualche modo direttamente dalla device. E, Obscura Cam, tra l'altro, permette anche qualche funzionalità, può essere carina, come quella di blurrare, cioè di oscurare, facendo diventare flu alcune parti della foto, che potrebbe essere per esempio il viso della persona che è capitata. Obscura Cam. Nei servizi di messaggistica tipo WhatsApp, Messenger di Facebook, questa cosa viene già fatta da loro, oppure ovviamente loro se li tengono, però no, al ricevente, parlo per il ricevente. Cioè il ricevente è in grado di vederli? Perché stavo facendo una prova adesso. La domanda è se i SaaS, i servizi commerciali che non so, ricevono una foto, si occupino di alterare i metadati prima di veicolarli. Non lo so, ma non credo, banalmente, perché gli costerebbe di più che non farlo, per cui per quale cazzo di motivo devono farlo fino a quando i loro clienti, tra virgolette, non glielo chiedono, quindi secondo me no. Può essere che lo converta... Sì, diceva comunque solitamente in questi servizi i file vengono... No, in realtà no, su WhatsApp non se li possono tenere, tra l'altro piccolo capitolo, tutte le chat che implementano la cifratura end-to-end, quindi dove il messaggio... come dire, non è leggibile all'operatore che ci mette a disposizione quel servizio, voi direte, quindi è sicuro. Anche qui, appunto, il business model di Facebook, che è il proprietario di WhatsApp, è appunto sui metadati, perché è vero che Facebook non sa di cosa parlate, ma sa con chi lo fate, quanto spesso lo fate, e questo per un'entità come Facebook è un dato molto importante, perché da quel dato è ovvio che tu puoi ricostruire le reti sociali. Okay? Quindi è vero, sì, la crittografia end-to-end, non sanno quello che mi scrivo, però, come dire, ha uno scopo di profilazione, è molto funzionale. Boh. Giusto, visto che si è parlato prima di un comunicato, una piccola informazione di quello che non è considerato in questo momento un metadato, ma è semplicemente uno stile. Entriamo in un argomento abbastanza nuovo, forse, o diverso. Se vi capita di fare dei comunicati e volete che la vostra mano sia anonima nell'averlo scritto, non basta che cancelliate i metadati dal documento, ma bisogna anche che lo stile col quale scrivete non sia lo stesso che usate abitualmente. Dunque, ricordatevi il taglia e incolla, decidete se farlo dai film di Dario Argento quando ritagliava i pezzettini di giornale per comporre qualche cosa, o se preferite Balrogs, o quello che preferite, ma comunque cambiate stile. mensile, perché viene ormai considerato una prova attributiva quello che è lo stile nello scrivere e poi viene ricercato attraverso vari scritti che possono essere stati distribuiti. Abbiate tanti stili. Ok. Sì, vabbè, adesso su questa cosa qui volevo aggiungere una roba, era un po' un plus, però anche rispetto alla questione dell'autenticazione dello stile nostro, rispetto a come ci approcciamo poi ai dispositivi. Esistono tante tecniche, anche proprio commercialmente utilizzate, per identificare gli utenti, anche in base non a quello che conoscono, ma anche a come lo fanno. Uno degli esempi più classici è, esiste un meccanismo di autenticazione che si basa non sulla vostra password e basta, è un two-factor authentication, come dicevo prima, solamente che si basa su come voi scrivete su quella tastiera, cioè ognuno di noi ha fondamentalmente uno stile statisticamente rilevabile di come scrive una stringa che già conosce. Quindi quando io scrivo la mia password, lo scrivo molto diversamente da un'altra persona che, anche conoscendo la mia password, non sono io. No? Il tempo che ci metto a digitare il tasto tra quando lo premo e quando alzo il dito, o quanto tempo ci metto a passare da un tasto a un altro, sono tutte informazioni che, cioè ci sono dei servizi che costano anche molto poco, per estrapolare, identificare fondamentalmente chi è quella persona lì. È una cosa di cui vi parlerò dopo quando parliamo di anonimato. Qui la chiudo sui metadati, abbiamo anche sprolocchiato troppo. Smartphone. E qui arriviamo un po' a un argomento succoso. Allora, ci sono veramente, ognuno di questi capitoli meriterebbe un talk a parte, quindi mi dispiace, ma su alcune cose dovremmo veramente tagliare con l'accetta. Cercherò di concentrarmi sugli aspetti che io ritengo più importanti e critici. Gli smartphone, vabbè, ovviamente sono ovunque, non sono dei telefoni, perché il fatto di poter fare delle telefonate è quasi una funzionalità che è, non so, è un po' lì, no? Cioè, sì, è ovvio che c'è, però fondamentalmente i motivi per cui li usiamo sono molto altri, cioè comunicare, ci sono n.000 sistemi di messaggistica, accediamo a internet, leggiamo la posta, facciamo le foto, contengono molte cose rispetto al solo la funzionalità del telefonare. Una delle problematiche degli smartphone è che non sono veramente, cioè non sono proprio stati progettati per essere sicuri. Ovviamente il modello di business è cioè fare un dispositivo molto economico. Quindi tutta la parte relativa alla sicurezza del dispositivo un po' lasciata così, come optional, così. Quindi insomma tutta la progettazione, l'ingegnerizzazione di questi dispositivi non tiene conto di una serie di robe che invece sono date quasi per scontate sui computer, ok? In particolare abbiamo veramente meno controllo sugli smartphone rispetto al controllo che possiamo avere su un computer. Ad esempio, semplicemente il fatto che reinstallare il sistema operativo su un computer vuol dire sì, uno sbattimento, però è un'operazione che è fattibile da chiunque, mentre fare la stessa cosa all'interno di un dispositivo mobile è, diciamo, una serie di bestemmie belle lunghe. Infatti, se una volta magari nei nostri giri vi spaccavamo il cazzo per installare Linux, è perché lo ritenevamo un'alternativa valida e usabile facilmente. Invece sul telefono attualmente esistono veramente delle alternative tipo Replicant, Lineage OS, esistono delle alternative che magari qualcuno di noi utilizza bestemmiando tanto, e ci sono vari livelli di compromessi e di criticità anche in queste alternative. Però insomma, questo è un po' il punto della questione. L'altra questione rispetto ai telefonini, che è molto più difficile investigare, cioè se già in generale è difficile investigare la presenza di un malware su un dispositivo, quindi se c'è un'infezione, in particolare sui telefoni è ancora più difficile. questa operazione di capire se effettivamente io sono stato infettato. E poi, vabbè, disinstallare programmi, immaginate, pensate solo ai telefoni brandizzati, quelli che voi comprate con il canone mensile, che sono della Vodafone fondamentalmente, perché c'è l'accordo commerciale tra Vodafone e che ne so, la Apple in Italia, dove ci sono preinstallate delle applicazioni loro, no? Quindi, che però il cui sistema operativo è stato modificato, brandizzato per contenere delle app che sono appunto di Vodafone, quindi che vi permettono di accedere alle offerte, bla bla bla. Ecco, disinstallare quelle app in determinati contesti non è proprio possibile. Quindi appunto questa è una delle problematiche rispetto al telefono. Un'altra delle problematiche che mi sento di condividere con voi è la questione dell'obsolescenza. Ne aveva parlato un po' prima lui, ma fondamentalmente quando un produttore di un telefono che magari ha venduto X copie, il cui sistema operativo era stato creato specificatamente per quel dispositivo, decide che non è più conveniente aggiornare il sistema operativo, semplicemente smette di farlo. Questo cosa vuol dire? Che siccome delle vulnerabilità, ovvero dei metodi per bucare i vostri dispositivi, i nostri dispositivi, comunque continuano a uscire nel tempo, quando il produttore di quel telefono smette di appunto mantenerlo, esistono, cioè quello che succede fondamentalmente è che il vostro telefono rimane pubblicamente vulnerabile senza che nessuno possa mantenere il software che gira all'interno del vostro telefono. Questa cosa invece per i computer non è così vera, ok? Perché diciamo che il computer è una macchina molto più generica rispetto al telefono. Anche qui non è sempre vero, sto tagliando molto con l'accetta, però genericamente è così. Vi parlo un po' adesso di geolocalizzazione, che è l'altro tema scottante del telefono. Questo perché il telefono fondamentalmente è uno strumento che noi ci portiamo sempre con noi e infatti legalmente è anche utilizzato come prova del fatto che voi eravate in un determinato posto. Col computer, a parte se siete tipo noi, non ve lo portate costantemente in giro, no? Quindi, e poi tra l'altro la geolocalizzazione è molto più difficile da fare con un computer. Sugli smartphone invece esistono moltissimi modi per geolocalizzarli. Primo modo, vi parlo di quattro modi e delle criticità di queste, della geolocalizzazione rispetto allo smartphone e del perché è così problematica, ma forse questo ce lo saltiamo. E allora, primo modo, il telefono acceso, ovviamente, quando è acceso si collega a un ripetitore, una cella. Okay? Quello è un metadato fondamentalmente, quindi quando voi ricevete un messaggio, mandate una comunicazione, state su internet, fate una telefonata, ricevete una telefonata o altre cose che poi, se volete, vi dico, comunica con una cella. Quella cella ha un identificativo, all'interno dei metadati delle telefonate, delle comunicazioni, quel dato è salvato in un database ed è mantenuto appunto per 24 mesi e identifica nell'arco più o meno, in base a se siete in una città quindi è densamente ricoperta da ripetitori o in aperta campagna, la precisione della geolocalizzazione è molto diversa, però così indicativamente un dato buttato lì, siamo nell'arco di un cerchio di 600 metri dal ripetitore, quindi è un dato che tra l'altro è stato utilizzato in fase processuale anche per reati molto banali, non per robe assurde, cioè sono richieste che si fanno quotidianamente per cose tipo le scritte sui muri. L'altra cosa, c'è questa leggenda della triangolazione, bla bla bla, dei ripetitori. Le foto no, grazie. C'è questa storia della triangolazione, no? Un po' una semileggenda. La triangolazione è un po' quella roba dei film, del CSI, che ne so, una roba così, per cui i ripetitori riescono in qualche maniera a triangolare la vostra precisione precisa rispetto alla potenza del segnale ricevuta dal vostro dispositivo. Questa cosa non è che è attiva sempre, è una cosa che si può fare in alcuni casi, cioè diciamo che tecnicamente è una realtà che esiste, è attivata ad esempio quando voi chiamate il 118, si attiva in automatico questa funzionalità per evidenti ragioni, ma è possibile attivarla anche in casi molto specifici e particolari. Quindi anche lì, se il reato è particolarmente bla bla bla bla bla, però insomma esiste questa possibilità, però non è attiva sempre, ok? Quasi, cioè non è mai attiva secondo me. Poi anche lì non c'è neanche modo di sapere quando è attiva, se è attiva, se ci sono delle statistiche, non esiste modo. Per evitare questi attacchi, tra l'altro, non è che c'è un modo, io adesso vi faccio un po' di butto, un po' di paranoia così, però non esiste un modo per, cioè se voi volete fare delle telefonate, ovviamente, se volete avere il telefono con voi, non esiste un modo per dire non mi geolocalizzo, perché il fatto stesso di essere attaccati alla cella è proprio quello che vi permette di fare quello che volete fare. Altra cosa, questa ve la butto lì, anzi no, questo ne parlo dopo. Sempre rispetto alla geolocalizzazione, che è la terza via, è il wireless. Il wireless, che è, come tutti possiamo immaginare, il sistema per comunicare in rete con il routerino, con le antennine, è anche un buonissimo modo per geolocalizzare il vostro dispositivo. E in effetti è proprio usato molto spesso. Cioè Google Maps, ad esempio, utilizza la lista delle reti wireless attorno a voi è il segnale che il vostro telefono prende rispetto a quelle reti wireless lì per identificare la vostra posizione, quindi per farvi vedere dove siete. Questa informazione qui non è utilizzata solamente per questo motivo qua, ma ultimamente, negli ultimi anni, è il modo in cui si utilizza commercialmente la vostra posizione, quindi anche i negozi possono sapere, semplicemente perché il vostro, la schedina wireless che è installata all'interno del vostro dispositivo ha un comunica con l'universo un identificativo univoco che è suo, ok? Quindi sta dicendo sono Pippo. Infatti adesso appunto il MAC address ultimamente è da Android 8 è randomizzato, quindi questa cosa non è più sempre così vera. Però è un attacco che funziona sui dispositivi che comunque c'è, tipo questo invece ancora no. Questa cosa qui viene utilizzata, a parte nei negozi, ma tipo per farvi un esempio concreto, l'8 luglio parte a Londra, dentro la metro, il Transport for London, farà partire un progetto che è stato sperimentato un paio di anni fa per, loro parole, ottimizzare la frequenza delle linee. Cioè loro attivano questo servizio all'interno della loro rete metropolitana per capire quante persone passano, dove vanno, fondamentalmente la frequenza delle linee, per come dire, tarare la frequenza proprio di quelle linee che sono appunto più utili in quegli orari lì rispetto a, insomma, ottimizzare sta roba qua. Però, sempre parole loro, vorranno usare, hanno già fatto degli accordi con Google, ad esempio, per utilizzare quegli stessi dati per vendere spazi pubblicitari tarati rispetto a le posizioni all'interno delle metropolitane che sono più visitate, perché avendo a disposizione un sistema di questo tipo la geolocalizzazione è molto più sensibile. Non si parla di 600 metri, si parla di pochi metri, okay? Quindi io, avendo messo in piedi un sistema di questo tipo, posso sapere veramente quante persone passano e guardano questo muro rispetto a quest'altro. Quindi quel muro lì, un cartellone pubblicitario su quel muro lì lo vendo al doppio del cartellone pubblicitario che sta su questo muro qui. E inoltre posso anche sapere chi è che l'ha visto, fondamentalmente, sempre per la questione, poi sì, tu dici il MAC address eccetera, però non è sempre così, ci sono altri modi per fare fingerprinting di chi è stato, adesso non stiamo a dire. Tra l'altro nella metro di Londra questa roba qui loro se la sono gestita dicendo facciamo degli hash e quindi non riusciamo a identificare davvero l'identità di chi è, però anche lì anonimizzare i big data in realtà non è un buon modo per smettere di riuscire a identificare chi è effettivamente quella persona che alle 8 del mattino tutti i lunedì va dalla stazione A alla stazione C e poi torna sempre alle 7:30 e il venerdì va in palestra, okay? Quindi anche se tu anonimizzi il MAC address suo puoi benissimo sapere che è, chi è, o anche, cioè fondamentalmente non è che ti interessa veramente in ambito commerciale sapere la sua identità, ma magari che è un maschio bianco che fa palestra, che vuole dei figli, che ne so, ok, questo in ambito commerciale, però in ambito invece di, in ambito repressivo, magari il tipo di domande che ti fai sono altre, però rientra sempre nel tipo di domande lecite che puoi porre a un sistema di questo tipo. L'ultimo punto, sempre rispetto alla geolocalizzazione, è quello più comunemente utilizzato, che è il GPS. Okay, il GPS è fondamentalmente un sistema di satelliti che con cui, contrariamente a quanto si può anche pensare stupidamente, non è che noi parliamo, i nostri telefoni parlano con i satelliti, come spero tutti abbiamo ben chiaro, ma sono i satelliti che mandano dei segnali con una frequenza specifica, e il nostro telefono o il nostro ricevitore GPS, in base al ritardo tra un segnale e l'altro, riesce a identificarsi all'interno dello spazio terrestre in un punto molto preciso. Quindi quel dato lì non viene comunicato come nei casi che ho elencato in precedenza, però è un dato che il telefono a quel punto ha e che può comunicare con altri canali, ok? Con internet, esatto. Ultima cosa rispetto ai telefoni, poi mi sembra che ho finito, sono gli IMSI catcher. Vuoi parlare un po' tu degli IMSI catcher? No. Vuoi parlare un po' tu degli IMSI catcher? No. Allora, gli IMSI catcher non sono un attacco così frequente, però è una cosa che esiste anche in Italia. È un attacco che non costa molto, si può mettere in atto, e fondamentalmente si parla di antenne ripetitori che fingono di essere altre antenne. Okay, quindi qui c'è un'antenna che ha un suo identificativo a cui il mio telefono è collegata. Se arriva qualcuno con un'altra antenna, si mette in questa stanza e questa antenna comunica al mio telefono di essere quell'altra, il mio telefono, diciamo, adesso la sto facendo molto semplice, però in qualche maniera si collega, invece che all'antenna della TIM, a questa antenna qui, perché semplicemente ha un segnale maggiore. No? Poi non è che funziona proprio così, però per dirvela in maniera spiccia. Questo è un tipo di attacco che mi permette sicuramente di carpire i metadati, certamente, quindi se io faccio delle telefonate, quanto durano, chi le faccio, eccetera, perché l'antenna lo deve sapere, perché deve appunto fare routing verso bla bla bla. E poi in alcuni tipi di attacchi, in realtà che non sono più così comuni, anche di fare sniffing, cioè di leggere il traffico che passa tra me e l'antenna stessa, quindi quando uso internet attraverso il telefono. Era una cosa così. L'attacco che viene più frequentemente, secondo me, utilizzato in Italia con l'uso di queste antenne è per capire quali persone, in particolare quali dispositivi, sono presenti in un determinato luogo, in un determinato momento, no? Che questa è una delle risposte che io posso dare con un attacco del genere. Cioè, metto un'antenna qui e tutti i telefoni che sono in questa stanza, in questa zona, automaticamente si attaccano a questa antenna, che a quel punto conosce una sorta di identificativo di tutti i presenti. Ok, quindi questo è. Non sto parlando di Wi-Fi, ma sto proprio parlando di GSM, 3G, 4G. Ok, quindi sto parlando di rete. Sì, è un po' complessa, ve l'ho messa un po' così perché sennò anche qua dobbiamo aprire. Vi racconto una cosa che è successa qualche anno fa, che a mia memoria credo che fosse il primo caso in cui è avvenuto, non era in Italia, era in Ucraina, durante un momento di guerra civile. È stato usato uno di questi trabiccoli, uno di queste scatolette, messa però su un drone, il quale perciò era in grado di muoversi. Veniva chiamato, in quel caso è stato chiamato Stingray. Voce. Più piano, pensavo di... Ok, non volevo ciucciare il microfono. Vabbè, ciuccerò il microfono. E dunque in quel caso veniva chiamato Stingray, il dispositivo, in quanto era su un drone volante ed era in grado di muoversi. Era stato utilizzato in quel caso in Ucraina dalla polizia, la quale voleva non tanto intercettare le telefonate o i messaggi che arrivavano dalla piazza, ma comunicare direttamente alla piazza. Dunque è stato abbastanza inedito, in quanto a un certo punto tutti i manifestanti che erano in piazza si sono visti recapitare un messaggino apparentemente proveniente dal loro provider telefonico che gli diceva sgomberate la piazza, se no vi arrestiamo. E questo fu forse era successo tipo 7-8 anni fa e forse è stato il primo caso di utilizzo di uno Stingray che ha voluto rivelare la sua esistenza, perché normalmente un oggetto del genere viene usato solo per intercettare, cioè è la classica valigetta che viene attaccata fuori da un edificio e viene usato per intercettare. Se questa scatoletta è anche collegata a internet, potrà anche veicolare la comunicazione e magari anche consegnarla. No, infatti sì, cioè ci sono n attacchi possibili con questa tecnica, sì. Allora, la domanda è, per evitare questa profilazione costante, una delle tecniche di cui si parlava tra l'altro ad Hackit, mi sembra un paio d'anni fa, era l'utilizzo di una sorta di schermatura, cioè un tessuto che avevano comprato le bolognesi per far smettere di comunicare il telefono con l'esterno. In realtà è molto più semplice, basta attivare la modalità aereo, che è una cosa che io consiglio, e in generale anche un'altra delle cose che mi sento di dire è di disattivare il wireless quando voi siete fuori dai contesti in cui lo utilizzate normalmente, quindi fuori da casa, dall'ufficio, dal posto che comunque su cui delegate la fiducia rispetto a quella rete lì, fondamentalmente. Quindi sempre alzare l'asticella appunto rispetto a quel tipo di attacchi. Quindi in generale, se non ti serve il telefono, metti la modalità aereo e in quella modalità lì il wireless è disattivato, il GSM è disattivato, il Bluetooth è disattivato, però non puoi farci niente, fondamentalmente è un fermaporta, il telefono è disattivato. Sì. No. Sì, le domande mi mangeranno tutto. Ok. Adesso rispondo invece alla tua domanda di prima, che sono arrivato, ti ho detto ne parlo dopo, vabbè c'è un'altra, vai. Sì, questo è vero, la cosa che diceva è c'è una differenza sostanziale tra mettere il telefono dentro un astuccio e sperare che il telefono faccia quello che dice di fare, però è anche vero che c'è anche una speranza nel tessuto, che in realtà non è sempre vera. Cioè quel tessuto lì io l'ho visto in alcuni contesti, effettivamente io ricevo le notifiche. La cabina è un luogo sicuro, come diceva Avanzi, no? Voglio dire, cioè, se il tuo modello di rischio è che il mio telefono mi traccia, non portarti un telefono, fine della questione. Oppure ti adoperi per avere una SIM anonima, una connessione, una email che non è mai stato usato su nient'altro e cose di questo genere. No, anche tu no. No, volevo domandare, ma il fondo microonde si è spento, isola il telefono? No, perché il fondo microonde ce ne sono tanti in giro, cioè è facile, ne contengono più di uno. Ti prego. Sì, una gabbia di Faraday, potete usare una gabbia di Faraday. No, infatti, no, raga. Allora adesso rispondo alla tua domanda di mezz'ora fa e ti avevo detto che ne avrei parlato. appunto buone pratiche, si vocifera appunto, ma insomma cosa fa questo telefono? Ascolta anche quando è spento, devo togliere la batteria, cosa devo fare per fare discorsi sensibili? Allora, questa cosa del ascolta quando è spento e devo togliere la batteria è un po', come dire, una leggenda metropolitana nata appunto da un malware che ingannava l'utente, faceva sembrare il telefono spento quando in realtà non lo era, quindi era nata questa paranoia, ma una roba veramente da novella 2000. E quindi, cioè, se il telefono è spento, io vi garantisco che è proprio spento. Se proprio volete togliere la batteria, comunque fatelo, ma comunque, cioè, è una cosa che io non vi consiglio. Tra l'altro, i nuovi telefoni non potete manco farlo, quindi vivrete nella paranoia. In generale, quando ci sono dei malware, in realtà quando in stand-by, alcuni malware possono effettivamente attivare il microfono, però è una proprietà particolare che funziona su alcuni telefoni, solo quando sono in carica, insomma, però così. In generale, se voi comunque avete un'asticella molto alta di paranoia, per fare discorsi sensibili o se dovete fare delle cose particolari, di solito quello che un po' si fa è spegnere il telefono tutti quanti. Ora, voi dovete sapere che quando io spengo il telefono, sto comunicando al mio gestore, questo telefono non sarà più disponibile. Ecco, che normalmente è una cosa tranquilla. Se tu sei in un aeroporto succede spessissimo, probabilmente. Se invece 20 persone contemporaneamente spengono il telefono, e questo è un metadato che viene salvato nel tempo, è poi, in fase processuale, questo evento è successo un'ora prima di un qualcosa che è successo, come dire, è un indicatore abbastanza fondamentale per comporre il puzzle. Quindi, quello che io mi sento di consigliare è, se dovete fare dei discorsi sensibili, considerando sempre gli attacchi locali, lasciate il telefono semplicemente acceso in un'altra stanza, ok? Quindi, considerando gli attacchi locali, lo dico nel senso, il vostro coinquilino, cioè se ci sono 20 telefoni dentro una scatola, è ovvio che io li posso pigliare, quindi è un altro tipo di attacco. Però questo è quello che dovete fare quando appunto volete stare proprio tranquilli. Poi, ovviamente, come vi dicevo, ci sono gli attacchi fisici. E questa è l'unica cosa che, diciamo, se vi dovete ricordare una sola cosa di tutto sto polpettone che vi sto facendo da stamattina, è questa. Mettete un PIN, sequenza, password, blocco schermo al vostro telefono. Questo è. Ok? Mettete proprio un PIN, un blocco sequenza al vostro telefono. Ok? Sì, questo è ovviamente, questo al netto di tutte le cagate che ho detto, però dico, questa è una delle robe secondo me più importanti da fare, cioè lasciare il telefono proprio sbloccato, nel senso che il telefono sbloccato è proprio oggetto di qualsiasi tipo di attacco, cioè proprio anche non da tua mamma, ma proprio da tua figlia. Capito? Cioè proprio quell'asticella lì di cui vi sto parlando da 7 ore, che stiamo cercando di capire come alzare, senza il blocco schermo è bassissima. Ok? Quindi mettete un blocco schermo, visto che era il capitolo dei telefoni, ci tengo particolarmente a sottolineare questa roba qua. No, attenzione, no. Ah, no. Lei diceva il blocco schermo cifra i dati. No, è una cosa che però è così se tu attivi la cifratura del dispositivo, nel senso che attivando nelle impostazioni la cifratura del dispositivo, cioè no, in realtà non è così. Cioè, no, allora, su Android tu praticamente utilizzi lo stesso sblocco per cifrare i dati e per sbloccare la home del telefono, fondamentalmente, quindi le due cose sono correlate. C'ho ancora due capitoli di cui parlarvi. C'ho ancora 40 minuti. Io volevo dire una cosa, però una riflessione mia, ma alla domanda come faccio? Allora, se il telefono è un identificativo che mi identifica nello spazio, nel tempo, mi registra ed è uno strumento che uso a questo scopo in realtà, se la domanda è come faccio a portarmi indietro un oggetto che mi identifica nel tempo e nello spazio in un momento in cui non voglio essere identificato nel tempo e nello spazio? La risposta è non te lo porti dietro. Volevo, è già stato detto, ma volevo ripeterla. Non lo so, però mi sembra paranoia gratuita. No, allora la sua domanda è: quando in aeroporto mi passano il cellulare o il. Allora, una USB è diverso, tant'è che poi il problema adesso in aeroporto non è lo scanner, è che il fatto che ormai ti possono dire dammi il telefono e sbloccamelo, oppure ti prendono il portatile, se lo portano in una stanzina di là e te lo ridanno dopo. Questo è uno scenario verosimile. Nel caso invece di un irradiamento eccetera, siamo sulla fantascienza, insomma. Però una chiavetta USB col acceso il portatile che ti infetta il disco se non è cifrato, ce ne sono già. Cioè le trovi, 30 secondi, accendi, con la chiavetta dentro, fa la cosa, togli la chiavetta e finito. Cioè a mano, facendolo a mano, quindi non facendolo fare in automatico, ci vogliono 2 minuti cronometrati. Figurati con uno coso che accendi e fai in automatico sta roba. Ok? Vai, voglia, grazie. Allora, ultimi tre capitoletti. Comunicazione, anonimato e server radicali. Se poi volete parlare di altre cose... Non... Allora, sulla questione comunicazione, un po' un capitolo spinoso, almeno per quanto mi riguarda. Io nei miei appunti l'ho divisa in due, tra l'altro non ve l'ho detto, però questi appunti da cui sto leggendo, che in realtà è un lavoro che abbiamo fatto collettivamente, ci portiamo dietro da un po' di tempo, i bolognesi sono partiti con un seminario di autodifesa digitale a un NAC meeting di non so quanti anni fa, hanno iniziato a scrivere, poi abbiamo iniziato a contribuire in 2000, e comunque le trovate su, per adesso, slides... fugadalcontrollo.org. E ovviamente, tra l'altro, ci sono i sorgenti di queste slides su Lattuga, sul Git di Lattuga, che è sempre un servizio che ospitano i bolognesi, quindi se volete aggiungere, cambiare, modificare potete farlo su git.lattuga.net. Allora, io in questi appunti mi sono, diciamo che è un po' spinoso, perché anche qui ci vorrebbe, per parlare di questa, del capitolo comunicazione, un altro seminario a parte. Io un po' negli appunti mi ero diviso in comunicazione 1-1, quindi mail, telefonate, sms, whatsapp, telegram, jabber, pgp, queste robe qui. E poi comunicazione molti a molti, quindi parlando di organizzazione tra gruppi. Quindi anche qui sempre WhatsApp, Telegram, Facebook, mailing list, IRC, eccetera. Anche qua cifrare le comunicazioni. Ora, è un argomento che vi interessa o possiamo fare a meno? Oh, vera. Vuoi parlare tu? Beh, allora... Dammi un'idea. No, Allora, appunto, è un argomento molto complesso e spinoso, e ci sono anche qui N livelli di rischio, e comunque è sempre un compromesso e una delega, mi dispiace, e praticamente tutta la questione della riservatezza in ambito digitale è fondamentalmente basata su una riduzione del danno, ok? E quindi in questo caso, nel caso appunto delle comunicazioni, cerco di stringere un po', il consiglio che io mi sento di dare, te la senti? È di usare Signal, adesso ve la butto così. Anche qui ci sarebbero milioni di distinguo, in particolare uno che mi viene in mente subito è il fatto che Signal sia uno strumento che si basa fondamentalmente sul vostro numero di telefono. Okay? Quindi non è ad esempio come la mail che voi, che è come dire, un tipo di contatto che non è necessariamente legato alla vostra identità fisica, okay? Non è registrato con un nome e cognome, contrariamente a quello che normalmente è un numero di telefono, cosa comunque non sempre vera, nel senso che ci sono degli escamotage per ottenere una SIM anonima, però comunque tendenzialmente in questa stanza nessuno ha probabilmente, credo, tra l'altro anche un contesto particolare, però non so, se c'è qualcuno che ha delle SIM anonime qui, alzi la mano. Io non avevo una SIM anonima, però quando vivevo a Berlino avevo una SIM intestata al tizio che me l'ha venduta nello Spätkauf, che poi io ho cambiato intestata a me, ma perché l'ho fatto io. Allora, sul discorso comunicazioni, magari facciamo, giusto partendo da questa scaletta, un attimo il sunto. Allora, email, l'email di base non è cifrata, ok? Quindi è facilmente intercettabile da chiunque sia sul transito, quindi il vostro provider, qualcuno che chiede l'autorizzazione al vostro provider, in più spesso la memorizzate, quindi il vostro provider, se tenete la posta in IMAP, non solo la può vedere nel momento in cui lui ve la manda, ma la può vedere anche tra un mese, un anno, due anni, tre anni, ok? Quindi l'unica maniera per mandare delle mail in maniera sicura è utilizzare la crittografia, utilizzare GPG e strumenti similari. Messenger, ce ne sono tanti. Alcuni non sono cifrati, nel senso che sono cifrati sul trasporto, quindi dal client al server, ma non è cifrato il messaggio end-to-end. Per esempio, il Messenger, Facebook Messenger non è cifrato, ok? Non solo, anche lì il gestore, quindi Facebook, può avere tutta la history della conversazione, è una feature, nel senso che poi tu vai a rivederla tra sei mesi e c'hai ancora tutta la conversazione, ma è anche un rischio, perché ovviamente c'è tutta la conversazione. Ci sono poi i messenger che sono cifrati end to end, alcuni però dicono di essere più cifrati di quello che in realtà non sono di default. Faccio un esempio che va molto di moda: Telegram non è cifrato di default. Telegram è cifrato end to end, cioè dal mio dispositivo con una chiave che ha solo il mio dispositivo al tuo dispositivo con una chiave che ha solo il tuo dispositivo, solo quando fai la chat segreta, ok? I group chat, tutti questi meccanismi qua non sono cifrati, sono cifrati nel trasporto, ok? Ma non sono cifrati nell'end to end. WhatsApp adesso come adesso. Sì. Questo è un problema in generale, tipo TR, cioè tutti questi strumenti qua, quando fai una sessione crittografica senza avere delle chiavi pubbliche, private, pregresse, okay, devono in qualche maniera scambiarsi delle chiavi e tu devi essere sicuro che l'altro sia effettivamente lui. Tutto il concetto del man in the middle, quando si parla di crittografia, è tutto basato su questo, cioè faccio il giochino delle tre carte, faccio credere a lui che sono io, ok, e faccio credere a te che sono io. Quindi io comunico in maniera cifrata, sì, ma con lui. Poi lui ricomunica in maniera cifrata con te, ma lui vede tutto. E questo si può fare solo o con la crittografia chiave pubblica privata, guardando la catena di certificazione, l'identità dei certificatori, oppure negli altri forme tipo TR, WhatsApp e tutte queste balle qua, avendo una qualche forma di meccanismo di scambio di chiave, diciamo, sicuro dell'identità. Quindi sì, dovresti fare il meccanismo del QR, eccetera. Però di solito tu lo fai una volta sola, poi lo memorizzi nel telefono e quindi se sei con un interlocutore... No, è importante. È assolutamente importante. WhatsApp adesso come adesso viene considerato, almeno dagli esperti, un messenger sicuro per quel che riguarda la robustezza della comunicazione. Poi io sconsiglio, e anche Leisure mi sembra di aver capito, di usarlo per tutta una serie di altre questioni, i metadati, il fatto che comunque dai queste informazioni. Però paradossalmente WhatsApp usa lo stesso algoritmo crittografico di Signal, cioè ha pagato il tizio di Signal per comprargli tutta la baracca e usarlo nella stessa maniera. Vai. Solo su WhatsApp c'è uno degli attacchi che viene più utilizzati amatorialmente su WhatsApp, è la funzionalità del web desktop. Praticamente voi su WhatsApp, anche su Signal, in realtà avete la possibilità di avere un client sul vostro computer. Tra le opzioni troverete appunto la possibilità di abilitare questa funzionalità, che fondamentalmente permette di accoppiare il vostro computer al WhatsApp che avete sul telefono. Questa funzionalità è utilizzata anche da delle app malevole per duplicare le comunicazioni anche verso un dispositivo di cui voi non avete il controllo. Cioè, di solito, come dire, le agenzie di investigazioni private per trovare gli amanti e le amanti fanno così. No, sì, allora si vede, cioè ci sono anche qui, tipo nelle nuove versioni, adesso non ho ricontrollato, però viene la notifica che c'è il web desktop attivato, però in alcuni casi in realtà questo non è vero, perché le app che tu installi disabilitano quel tipo di notifiche lì. Invece nella lista dei dispositivi collegati viene, però comunque è un'opzione, come dire, che tu non è che controlli quotidianamente o settimanalmente, però sì, è una roba di cui ti puoi rendere conto. Oh. WhatsApp appartiene a Facebook perché c'è la tua mamma e quindi per parlare con lei devi usarlo. Sì. Allora, sul sito dell'EFF, che è l'Electronic Frontier Foundation, e credo anche, non so se avete anche voi una matrix sul sito di controllo. Allora, sul sito dell'FF c'è una matrix in cui, secondo i loro esperti di privacy, sicurezza e balle varie, analizzano tutti i vari messenger più diffusi e vi dicono: secondo noi è buono, secondo noi è meno buono. Ci sono anche dei siti, come era quello famoso che c'era tutte le Prism Break, ci sono un po' di manuali, in primis appunto quello che stanno curando loro con i ragazzi di Bologna, di Firenze, eccetera, che provano a dare una serie di cose. Però una cosa importantissima che non dobbiamo mai dimenticarci: qual è lo scenario, quello di merda, in cui anche se io ho Signal, Messenger, un coso cifrato che ci siamo scritti solo io e lui, sono comunque nella merda? Il malware, bravissimi, ricordatevelo sempre, questo è importante. Cioè tutta la faccenda della lossless interception, di hacking team, eccetera, è nato per questo, è nato per intercettare, a loro detta, lo Skype dei mafiosi, i pedosata terroristi di internet. Okay. Poi casualmente hanno cominciato a usarlo anche per altre cose, ma è stato un effetto. Malware, brutte cose. No, non è in chiaro, è cifrato end to end, quindi tu... No. Sì, però, allora, loro teoricamente se fanno tutto quello che dicono non ce l'hanno. Poi... No, in teoria no. Poi io non ci scommetterei la mia vita sopra. Ah, c'è un punto su questo prima... Ah sì, hai ragione, la domanda sua. Lui diceva che WhatsApp comunque, anche se c'è la cifratura end-to-end, mantiene i dati sui suoi server, no? In realtà non è così, la cifratura è veramente end-to-end, cioè vuol dire da foglia, da fine a fine, cioè da chi scrive a chi riceve e viceversa, ed è vero, è così. Tranne in alcuni casi, nel senso che ad esempio quello che vi dicevo prima della web desktop è uno di questi casi in cui non è, cioè è così, sì passa comunque dal telefono per decifrarla, cioè nel senso che comunque la comunicazione è end to end, però ad esempio e questo tra l'altro è anche verificabile, nel senso che se voi cambiate telefono non vedete i messaggi, lo storico, perché la chiave è diversa, è una nuova chiave e quindi non è possibile più nel nuovo telefono visualizzare i messaggi che avete sul dispositivo vecchio. Però su WhatsApp, ad esempio, è possibile fare un backup. C'è la funzionalità backup, e quel backup è ovviamente in chiaro, perché è proprio il motivo per cui tu stai facendo il backup. Quindi in quel caso ovviamente il backup non è in chiaro, cioè non è cifrato. C'era un'altra domanda? Ah, se Proton Mail è cattivo, e come si fa a evitare dell'antenna di prima del EMC catcher, si chiama, e poi facciamo anche questa. Sì, è quello che diceva lui. Sì, la cosa che diceva è un po' un rimarcare quello che dicevano prima rispetto a mettere appunto dentro un astuccio il telefono protetto da questo tessuto che scherma le onde, piuttosto che appunto abilitare la modalità aereo. E anche rispetto alla domanda che dicevi di è vero che è end-to-end encryption, veramente, cioè, questo è possibile dirlo perché analizzando il traffico è proprio vero che è cifrato, però anche qui ritorniamo nel capitolo del software libero, nel senso che noi non sappiamo veramente quello che è, come è scritto WhatsApp. Quindi magari, che ne so, c'è una funzionalità, perché in alcuni casi l'end-to-end encryption non è abilitato. Mi sembra molto improbabile, però potrebbe essere. Quindi anche per questo, ad esempio, Signal è software libero e tra l'altro è firmato, quindi c'è un modo per verificare che il sorgente che è disponibile alla comunità sia effettivamente il programma che gira fisicamente sul tuo dispositivo. Quindi è anche molto difficile che ci sia qualcuno nel mezzo che modifica poi l'app che voi ci avete installato sul dispositivo. Altre 18 domande? Non mi ricordo se ho risposto a qualcuno, c'era un'altra domanda in coda, no. Ah, Proton Mail sono cattivi. Ah, Proton Mail, c'è uno storico di Proton Mail. Io, come dire, loro è il loro business fondamentalmente, però a me sembrano abbastanza amici, però non ho ulteriori dati. Nel senso che io uso Proton VPN ogni tanto, che è un altro servizio loro, però cioè, anche lì è delega, fiducia e... Autistici, sono veramente autistici o è un servizio, un meccanismo messo su dai servizi italiani? Cioè, tu non lo sai mai se non lo fai te. E anche se lo fai te, c'è tutto uno strato tecnologico sotto per cui ti possono sostituire il server. Cioè, non lo sai. Per cui puoi scegliere tra usare ProtonMail e usare autistici. Io, se devo scegliere, io uso autistici, voglio dire, no? Cioè, però non lo puoi sapere se non sai ProtonMail, quindi... Allora, volevo approfittare, volevo dire una roba, la questione non è solamente tecnica, esiste anche la questione, poniamo, chiamiamola geopolitica per esempio, visto che è stato citato WhatsApp, ricordare che WhatsApp sia una ditta appartenente al gruppo Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp, può essere indicativo, ci ricorda anche da dove viene questa ditta, dove è localizzata geograficamente e dunque da che cosa dipende, in quale sistema legislativo è collocata. Per esempio Facebook, che è una ditta americana, è assolutamente dipendente dalle leggi americane. Le leggi americane dal 2001 hanno in vigore il Patriot Act, che è stato rinnovato nel 2011, è tuttora in vigore ed è una legge estremamente restrittiva che impone a un'azienda americana assolutamente di rivelare qualunque dato sia a disposizione alle istituzioni nel momento in cui lo richiedano. Questo potrebbe, come dire, levarci dalla fatica di analizzare se tecnicamente WhatsApp sia sicuro o meno. È ovvio che dovrà divulgare o cedere i dati nel momento in cui avrà una richiesta, altrimenti non potrebbe operare, cioè non potrebbe esistere come azienda americana. Signal ha una delle caratteristiche diverse. Seguendo questa linea di pensiero e questo gioco, potremmo per esempio domandarci Proton Mail è localizzato in Svizzera. La Svizzera, per esempio, per motivi che non ci sono assolutamente simpatici, però ha una lunga storia di difesa della privacy, basta vedere come trattano il segreto bancario, e dunque certo che Proton Mail localizzato in Svizzera potrà utilizzare alcune forme legislative e dunque implementare alcune cose, cosa che l'Italia non potrà fare. E queste sono considerazioni che potrebbero servirci, per esempio, nel momento in cui dici devo aprire un dominio, dove lo apro, in che paese è, ma ho aperto una VPN, una VPS, in Germania o in Francia, dipende, se devo divulgare dei contenuti protetti da copyright, la scelta della Francia è decisamente pessima, perché hanno una legge sul copyright, la legge Adopi, che è estremamente restrittiva, la Germania sarà più tollerante, per fare un esempio. I paesi che sono più tolleranti in questo momento di quelli raggiungibili in Europa sono sicuramente la Svezia, l'Irlanda, la Svizzera, e l'Olanda. Io, rispetto a quello che dicevi tu anche del fatto che WhatsApp potrebbe essere che ogni tanto disabilita la end-to-end encryption, sì, potrebbe essere vero. Quello per cui secondo me è improbabile, o che comunque anche se succede, succede molto raramente, è che nel caso in cui questa sia una tecnica utilizzata veramente, sarebbe già uscito pubblicamente. Cioè, tutte le volte che come dire, ci sono stati dei leak o ci sono state dei processi o delle richieste da parte delle forze dell'ordine rispetto all'accesso dei dati di utenti, sono questioni che poi nel tempo sono venute fuori. Quindi, cioè, magari uscirà domani che la polizia, l'FBI o che cacchio ne so, ha richiesto i dati a WhatsApp e hanno trovato un modo. Però molto spesso anche le aziende stesse, ci sono molti casi, ad esempio la Apple ha subito delle richieste, in particolare per un dispositivo, su un processo abbastanza complesso, il cui reato era abbastanza pesante, di fornitura di dati di quel dispositivo. E le compagnie in generale a questo tipo di richieste non è che sono contente veramente di rispondere, tranne quando ci sono dei canali già prestabiliti, perché comunque per il loro business non è una cosa bella, per gli utenti non è una buona pubblicità che tu comunque hai collaborato, quindi è anche molto difficile secondo me, poi non è che lo escludo a priori, però ecco, non è una roba che io vedo utilizzata sulla massa, solo questo. Sì, certo, cioè, non ho, è chiaro, lui diceva quando dentro i consigli di amministrazione ci sono comunque le agenzie governative, perché sono lì, e anche lì torniamo secondo me anche al discorso dei metadati, che invece quelli ci sono, e quindi comunque sono dei dati molto utili da avere. Sì, due domande e poi basta, perché sono i 55 e io devo ancora parlare di almeno una cosa che è importante. Sì. Sì, è difficile che lo facciano di massa. Secondo me è improbabile anche che sia mai successo, però non lo escludo. aumenti la superficie di rischio, cioè aumenti la superficie d'attacco. Quindi usando il client, usando il client di Signal sul desktop è valido quanto usare solo l'app. Aumenti la superficie d'attacco, quindi appunto sempre rispetto alle domande ok, io vi volevo parlare solo ancora di anonimato e di server radicali. Adesso vediamo se è una cosa che vi interessa oppure no. Comunque, anonimato, facciamo veloci. Allora, in generale l'anonimato, come tutto il pippone che vi sto facendo, non è una proprietà, no? Non è una cosa che si compra, installi un prodotto, compri l'anonimato e ce l'hai. È una cosa un po' più complessa di così. Ci sono degli strumenti appunto che sono utili in determinati contesti e che io mi sento di suggerirvi. In generale, quando parliamo di anonimato su internet, stiamo parlando di nascondere il nostro indirizzo IP. Il nostro indirizzo IP fondamentalmente è un numerino che identifica la nostra connessione, quindi fondamentalmente da dove veniamo, da dove viene quel traffico. E quando parliamo di nascondere il nostro indirizzo IP, lo strumento, il re degli strumenti per nascondere l'indirizzo IP è Tor. Tor è fondamentalmente una rete di volontari che sono sparsi in tutto il mondo e hanno messo in piedi un'infrastruttura tecnica che permette agli utenti di poter accedere a questo, appunto, questo strumento uscendo su internet con un indirizzo IP che non è il loro. Quindi fondamentalmente qualcuno si sta accollando la responsabilità del traffico che voi fate quando utilizzate Tor. Questo qualcuno solitamente è in un'altra legislazione, ok? Quello che succede di solito utilizzando Tor è che il vostro traffico passa su tre nodi, tendenzialmente così, si può cambiare però il default, tre nodi che sono in stati diversi, e l'ultimo nodo, che si chiama exit node, vi fa poi accedere al servizio che voi volete accedere, che a quel punto non sa qual è il vostro indirizzo IP reale. Questo però non vuol dire che, come dire, l'indirizzo IP è solo una delle questioni rispetto alla vostra identità, perché se io utilizzo Tor per accedere al mio profilo Facebook e scrivo qualcosa e quel qualcosa è un qualcosa di diffamante, ovviamente la denuncia per diffamazione arriva a me, anche se io ho utilizzato Tor. Mi sembra abbastanza evidente, però ci tengo a specificarlo perché ci sono state delle occasioni in cui qualcuno ha rivendicato dei comunicati usando Tor, mandando una mail dal proprio indirizzo di posta nominativo di Gmail, e si è stupito che ha ricevuto poi una telefonata sgradevole. Quindi quando parliamo di anonimato è evidente che io vi sto parlando di celare l'indirizzo IP, quindi dovete entrare nell'ordine di idee di immedesimarvi in un'altra persona, fondamentalmente. Quindi non dovete accedere ai vostri profili, non dovete accedere al vostro account di posta, però potete creare nuovi account di posta, nuovi account sempre da Tor, ovviamente, e potete, come dire, utilizzare quei profili sempre all'interno di questa rete, ok? Diciamo, se siete abbastanza attenti a non comportarvi male e non fate cose troppo gravi, diciamo che Tor è un ottimo modo per raggiungere un ottimo anonimato su internet. Ora, Tor funziona per tutti i protocolli che ci sono su internet. Noi di solito, cioè noi, gli utenti di solito associano internet al web, sono due cose diverse. Web è una parte di internet. Per navigare con Tor sul web si usa un browser che è fondamentalmente un Firefox modificato, si chiama Tor Browser, che vi permette facilmente, esattamente come il vostro Firefox, di utilizzare questo stratagemma che vi ho appena raccontato. Anche sui telefoni c'è la possibilità di utilizzare questo strumento. Tra l'altro la scorsa settimana è uscito proprio il Tor browser ufficiale per Android, perché prima bisognava fare una roba un po' paccioccosa che era Orbot, Orfox, eccetera. Però dalla scorsa settimana si può installare proprio una versione di Tor browser sull'Android. Sulla questione de-anonimizzare, anche qui è sempre una questione rispetto a quella famosa asticella di cui vi abbiamo parlato tantissimo quest'oggi, e appunto si basa non solo sul vostro indirizzo IP o sul fatto che voi potete loggare ai vostri account social, ma il nostro comportamento all'interno di internet denota anche delle nostre caratteristiche. In particolare, quando io utilizzo un dispositivo, quel dispositivo ha delle peculiarità che scremano chi è che può essere ad utilizzarlo. Vi faccio due esempi stupidi. La lingua che utilizzo e la dimensione dello schermo. Poi ci sono altri mille modi per giocare a indovina chi, no? Fondamentalmente. Quindi togliere tutte le caselline e dire ok, questo parla italiano, ha uno schermo così, ha un processore così, supporta questi font, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei casi in cui delle persone sono state beccate perché, come dire, non hanno fatto attenzione a questi particolari. Poi se volete vi racconto anche degli aneddoti. Quindi ecco, fate occhio a, anche utilizzando quello strumento, a non comunicare dei dettagli della vostra vita privata. Uno dei delle persone, diciamo uno degli aneddoti famosi è di un ragazzo che era sotto indagine da parecchio tempo e utilizzava Tor quotidianamente per i suoi loschi affari, che è stato beccato perché, parlando in chat con un suo amico presunto che in realtà era un infiltrato, gli aveva detto che quel giorno era in mutua a casa. E siccome era un infiltrato, poi controllando con l'INPS le persone, che loro sapevano già la regione di dove era questo tipo, controllando nel database dell'INPS chi è che aveva chiesto delle ferie per quel giorno, l'hanno trovato, ma dopo anni. Quindi insomma, per dirvi, ci sono ovviamente delle modalità con cui vi dovete approcciare a questa roba qua. Nel caso in cui voi siate particolarmente paranoici o anche per fare delle cose particolari, esiste, qua vabbè, io la VPN ve la salto, esiste un sistema molto... Allora, lui diceva, i nodi di Tor sono pubblici, non c'è un disgraziato che poi prende la colpa. In realtà è proprio così, c'è proprio un responsabile, però solitamente, appunto, come dicevo, in un altro sistema legale. Quindi quando succedono delle cose particolari, quando succedono in un altro sistema legale, tutta la macchina che si mette in moto è molto dispendiosa a livello di proprio economico, risorse, perché bisogna fare una, come si chiama, una rogatoria internazionale, insomma dipende dal tipo di reato. Però sì, c'è un responsabile a cui lui ha di solito un indirizzo email che si chiama l'abuse, a cui riceve parecchie contestazioni, di solito per robe strane, a cui lui di solito risponde: io non sono il responsabile del traffico che arriva dal mio nodo. Perché questa è un po' la questione, perché il tipo Telecom non è responsabile del traffico mio, ok? E neanche l'operatore del nodo Tor, non è lui che l'ha generato. E quindi l'appiglio più o meno questo, cioè lui, è vero, il traffico, come dire, sanzionabile è arrivato da un server intestato a lui, però lui ha semplicemente fatto passare quel traffico lì, quindi, come dire, non è il responsabile. Sì, sì, cioè gli exit node Tor sono pubblici, tant'è che poi vengono usati anche per identificare il traffico Tor per filtrare. Il discorso della responsabilità dipende poi molto dalla legislazione, da una serie di cose, nel senso che potrebbero comunque romperti i coglioni anche solo per fare da exit node passivo di Tor, e potresti dover affrontare rotture di balle giudiziarie, quindi comunque è una cosa che va fatta con grano salis. Un'altra cosa importante da sapere è che ci sono anche degli exit node Tor. Perché sono più importanti gli entry e gli exit node? Perché l'exit node è quello che sa dove stai effettivamente mandando il traffico. Ci sono anche nella storia, ci sono stati degli exit node malevoli, cioè io tiro su un exit node per iniettare malware nella... Siamo sempre lì, eh? Sì, infatti, cioè, usare Tor protegge l'anonimato, non altre cose, ok? Quindi quello che poi, cioè, tra l'altro, in qualche maniera aumenta la superficie d'attacco di altre tipologie di attacchi, però insomma è una cosa che... Allora, la domanda è se io utilizzo Tor non per cose losche, ma per cose tranquille, quanto serve, quanto aiuto la comunità che usa Tor a essere veramente anonima? Serve molto, nel senso che è una delle cose che si consiglia di fare, perché appunto si basa sul numero di persone che usa Tor fondamentalmente. Infatti, tra l'altro, ci sono proprio dei casi di persone che sono state beccate perché erano le uniche persone in quel contesto, in quel momento, in particolare in un'università, un tipo aveva mandato un allarme bomba e per saltare un esame, tra l'altro, e usando Tor, e l'FBI è andato dagli amministratori di rete di Harvard e gli ha chiesto: dimmi in questo lasso di tempo chi è che usava Tor, perché tra l'altro lui si collegava dal wireless dell'università con l'autenticazione del suo account. E quindi era lui da solo all'interno dell'università l'unico che in quel orario lì stava usando Tor, e quindi era lui per forza, e quindi lui è nella merda. Sì, sì, certo, aiuta. La domanda è se nel momento in cui una nazione decide di bloccare l'utilizzo di Tor, gli exit node e gli entry node, perché appunto sono IP pubblici, cosa posso fare? Anche rispetto agli altri modelli di rischio che abbiamo toccato, anche per esempio nel caso di questo studente qui, l'opzione può essere utilizzare una VPN a monte. La VPN è fondamentalmente uno strumento che mi permette di far rigirare il traffico attraverso un servizio tipo di Rise Up. Rise Up offre una VPN, una volta anche autistici offrivano VPN, è un discreto sbattimento ed è il motivo per cui adesso ho smesso di offrire una VPN. Però appunto anche nel caso in cui un'intera nazione decida di bloccare l'accesso a Tor, esistono degli stratagemmi, ad esempio usare un bridge. All'interno di Tor esiste la possibilità di utilizzare un Tor bridge che fondamentalmente fa finta di essere traffico normale, perché per bloccare un tipo di traffico tu prima devi identificarlo, e il traffico Tor è identificabile appunto attraverso il fatto che tu stai comunicando con uno di questi server Tor che sono pubblici. Però esiste la possibilità anche di ospitare, cioè voi potete ospitare un nodo Tor, è una cosa che si può fare, in Italia non esistono tanti perché è una roba abbastanza, cioè è una roba da seguire, ha dei costi, è abbastanza uno sbattimento. Infatti, per parlare così di numeri, siamo più o meno sui 7.000-8.000 nodi a livello mondiale di persone, di volontari, eccetera, che hanno messo un nodo Tor. In Italia mi sembra ci siano 5 nodi Tor in tutto. È una roba a cui abbiamo cercato di porre rimedio, ma non è così semplice, sia per una legislazione abbastanza ostica e sia per un'altra serie di problematiche che sono prettamente commerciali, perché per il provider da cui voi andate a chiedere voglio ospitare un nodo Tor, quello diventa veramente una spina nel culo, perché a loro gli arrivano tutti i reclami di quelli che si lamentano prima di arrivare a te. Quindi ci sono alcuni provider che dicono: ok, me l'accollo, però mi devi dare 500.000 euro, cioè non così, però mi devi dare un bel po' di soldi perché comunque è un servizio plus, però tu devi per forza farlo in Italia se vuoi avere un nodo Tor in Italia. Questa è una delle altre problematiche della rete Tor, però insomma, quindi sì, c'è la possibilità di avere dei Tor bridge, si chiamano, per evitare questa roba qua. L'altra... Ultima cosa, Tails. Tails è una distribuzione live, un sistema operativo live. Cosa vuol dire? Che è un sistema operativo che voi non vi installate sul vostro computer, ma lo mettete all'interno di una pennetta e potete convincere con degli stratagemmi particolari, potete convincere il vostro computer a avviarsi da questa pennetta. E questa pennetta, questo Tails, è fatta in modo da far passare tutto il traffico che genera attraverso la rete Tor, quindi non potete sbagliare, e B, da dimenticarsi tutto quello che fate quando state lavorando dentro Tails, okay? Quindi si dimentica semplicemente tutto quello che avete fatto. C'è la possibilità di avere una partizione persistente all'interno di questa pennetta, no? Per salvare i vostri progetti, però è uno dei modi che io consiglio se voi dovete occuparvi di progetti particolarmente sensibili. Usate Tails, avete una pennetta, quando dovete fare quel tipo di operazione infilate la pennetta, riavviate il computer, avete nel caso in cui serva una partizione persistente dove salvate i vostri progetti, i vostri dati, i vostri bla bla bla, la vostra identità che ritenete appunto sensibile, e da lì, come dire, dormite più sereni. Anche perché usando Tor sul PC normale di tutti i giorni è più facile fare una cazzata e comunque rivelare il proprio IP. Molti attacchi su Tor o sul Tor browser comunque prevedevano il fatto che tu usassi un browser normale in un PC normale. Tails non è sicura al 100%, però è comunque fatta in modo per limitare al massimo il rischio di esposizione involontaria, soprattutto se non siete degli smanettoni, dei tecnici e così via. Un'altra feature divertente di Tor, è molto bella farla vedere alle dimostrazioni, è che nel momento in cui tu tiri fuori la pennetta, anche se non hai spento il computer, lui se ne accorge e prova a cancellare tutta la memoria, eccetera, quindi per evitare anche una serie di attacchi anche di un livello abbastanza elevato, che è il dump della memoria a caldo o cose di questo genere, proprio perché è pensata anche per usi in situazioni dove rischi veramente la vita o quasi. Poi io non mi sento di raccomandare, dire vai in una zona di guerra dove se ti prendono ti ammazzano e semplicemente c'hai Tails e sei a cavallo, perché comunque va fatto con grano salis anche quello, però diciamo che comunque è pensata addirittura per quel tipo di scenari lì, quindi per un uso diciamo di anonimizzazione e così via, sicuramente è un ottimo strumento. Non so se vuoi parlare anche di quella dei ragazzi di Roma? No, è finita. No. Sì, io direi stiamo anche sforando, tra l'altro io c'ho un talk tra poco, quindi se volete finisco l'ultima roba o se no no. Ma comunque... Oh, ma non vi stufate. Adesso passo col cappello. Allora, server radicali. Questa è anche una cosa che mi sta abbastanza a cuore. Allora, in generale, appunto, io ho anche abbastanza calcato sulla questione della delega. Nel senso che, ovviamente, anche come abbiamo ripetuto, l'idea potrebbe essere mi faccio tutto io, no? Il do it yourself, mi faccio il mio server di posta, mi faccio il mio, come si diceva appunto al seminario di ieri, mi gestisco io, come dire, le risorse utili al mio collettivo e ai miei conoscenti e ai miei compagni. Questa cosa non è sempre facile da fare, anzi richiede appunto un discreto lavoro, un discreto sbattimento, un discreto anche dispendio di risorse economiche, quindi a un certo punto tocca fidarsi di qualcuno. In generale quindi siamo davanti a una scelta, come quando scegliamo, stasera si parlerà da dove arriva il nostro cibo, no? Noi dobbiamo decidere se comprare dalla grande distribuzione, possiamo comprare al mercato sotto casa nostra, possiamo andare a un gas, a uno spa, o possiamo decidere di farci l'orto. Sono tutti livelli appunto di compromessi che io accetto, che hanno le loro criticità. Ecco, anche nella scelta di dove apro i servizi, è una scelta che impatta sulla sicurezza delle mie comunicazioni, dei miei dati, eccetera, eccetera. Quindi se io prima vi suggerivo di utilizzare software libero, quando parliamo di servizi, quello che io vi suggerisco, soprattutto se dovete occuparvi di cose di movimento, anche cose sensibili, di utilizzare i server radicali. E qui ovviamente sto parlando di autistici.org, di RiseUp, eccetera, eccetera, che fanno un discreto lavoro, tranne a parte questi giorni che erano in aggiornamenti totali, però insomma sono bravi, si sbattono veramente tanto, quindi anzi dategli una mano nel, ci sono i vari bottoni donazioni eccetera. E quindi questo è quanto. Ce ne sono molti altri. Noi a Torino ne abbiamo aperto uno adesso che si chiama cisti.org, che in realtà offre dei servizi molto più orientati sul territorio e non le classiche mail, mailing list, eccetera. Uno di questi servizi sarà il tema del mio prossimo talk, che è Gancio, che è un fondamentalmente, tra l'altro, sì, mi sa che è qua. Che è un aveva mie da dire. No. Datemi almeno 10 minuti, mi bevo un caffè. Andiamo a prendere una birra e ti faccio vedere. Maratona, no?